Capitolo 11. Un nuovo capitolo in un romanzo è come un nuovo atto in una commedia. E nel momento in cui io alzo il sipario, questa volta, lettore, devi immaginarti una stanza della locanda Giorgia Millcote, con le pareti coperte di una carta a grandi disegni, come se ne trovano soltanto negli alberghi. Anche il tappeto, i mobili, i ninnoli sopra il caminetto, le stampe, tra le quali figurano un ritratto di Giorgio III, un altro del principe di Galles e una rappresentazione della morte di Wolfe, sono comuni a tutte le locande. Tutto questo lo vidi al lume di una lampada a olio che scende dal soffitto e di un fuoco bene acceso, presso il quale mi siedo ancora avvolta nel mantello e con il cappello in testa. L'ombrello e il manicotto li ho posati sul tavolo e in quel tepore mi libero a poco dell'umido e del freddo che mi intirizziscono dopo un viaggio di 16 ore compiuto in una rigida giornata di ottobre. Avevo lasciato Lowton alle 4 del mattino ed ora il campanile di Millcote batteva le 8. Lettore, lettrice, benché io sembri a mio agio, seduta qui comodamente, non ho lo spirito tranquillo. Credevo che qualcuno sarebbe venuto a ricevermi alla diligenza e mi ero guardata attorno ansiosamente mentre scendevo la scaletta offertami dal postiglione, sperando di sentire pronunziare il mio nome, di vedere lì presso una carrozza che mi aspettasse per condurmi a Thornfield. Invece non c'era anima viva, e quando chiesi al cameriere se fosse venuto qualcuno a cercare una certa signorina Eyre, n'ebbi una risposta negativa. Così non mi rimase altro che farmi accompagnare in una camera dove ora sto aspettando, con la mente turbata da ogni sorta di dubbi e di paure. È una strana sensazione per un'inesperta giovinetta trovarsi completamente sola al mondo, lontana da luoghi e volti familiari, senza sapere se potrà raggiungere il porto al quale è diretta, mentre infiniti ostacoli le precludono il ritorno a quello che ha lasciato. Il fascino dell'avventura, tutta prima, addolcisce questa sensazione, la fiamma dell'orgoglio la riscalda, ma poi la paura comincia a farsi strada, ed io ne sentii la stretta quando mi accorsi che mezz'ora era trascorsa ed ero ancora sola, decisi di suonare il campanello. Vi è nelle vicinanze un luogo che si chiama Thornfield? Domandai al cameriere che si presentò. Thornfield? Non so, signora, vado a informarmi. Uscii, ma fu subito di ritorno. È lei la signorina Eyre? Mi chiese. Sì. C'è una persona che l'aspetta. Saltai in piedi, presi ombrello e manicotto e scesi in fretta nell'atrio. Un uomo aspettava davanti alla porta dell'albergo e sulla strada fiocamente illuminata vidi ferma una carrozza e un cavallo. È quello il suo bagaglio? Domandò bruscamente l'uomo quando mi scorse, additando il mio baule posato in un angolo. Sì. Allora lo caricò sul veicolo, che era una specie di calesse, poi salii anch'io, ma prima che chiudesse lo sportello gli domandai quanto fosse distante Thornfield. Circa 6 miglia. E quanto tempo impiegheremo per arrivare? Un'ora e mezzo, pressappoco. Chiuse lo sportello, salì a cassetta e ci avviamo. Procedevamo piano e così ebbi agio di riflettere. Ero contenta che finalmente il termine del mio viaggio fosse prossimo e appoggiando la testa allo schienale di quella comoda, anche se in elegante vettura, mi abbandonai ai miei pensieri. È probabile, dicevo tra me, a giudicare dalla modestia di questo equipaggio, che la signora Fairfax sia una persona che non cerca di comparire. Tanto meglio, una volta solo ho vissuto in casa di gente ricca ed ero tanto infelice. Chissà se vive sola con la bambina. In questo caso, se appena appena un po' cortese, riuscirò certamente ad andare d'accordo con lei. In ogni modo farò del mio meglio. Peccato però che anche facendo del proprio meglio non sempre si riesca a farsi voler bene. Quando entrai a Lowood, tenni fede a questo proponimento e mi portò fortuna. Ma con la signora Reed ricordo bene che ne ebbi in cambio solamente rimproveri e parole sprezzanti. Prego Dio che la signora Fairfax non sia una seconda signora Reed. E se poi lo fosse, non sono obbligata a rimanere da lei. Nel peggiore dei casi cercherò un altro posto. Chissà se manca ancora molto ad arrivare. Abbassai il vetro e guardai fuori. Millcote era alle nostre spalle e a giudicare dal numero delle sue luci doveva essere una grande città, molto più grande di Lowton. Ora, da quel che potevo vedere, stavamo attraversando un villaggio, ma tutta la regione era disseminata di case e mi sembrava diversa da quella di Lowood, più popolata e meno pittoresca, più animata ma meno romantica. La strada era fangosa ed ineguale, la notte nebbiosa. Il cocchiere lasciava che il cavallo andasse al passo, così anziché un'ora e mezzo, credo che ne impiegammo due. Finalmente si volse verso di me e disse: Ora siamo poco distanti da Thornfield. Guardai fuori di nuovo. Passavamo davanti a una chiesa, vidi profilarsi contro il cielo il sottozzo campanile e udii l'orologio scandire un quarto. Vidi anche, su di una collina, una fila di lumi che indicavano un villaggio o forse un piccolo borgo. Circa 10 minuti dopo il cocchiere scese e aperse due cancelli, che si chiusero con fracasso non appena li ebbimo oltrepassati. Risalimmo lentamente un largo viale ed arrivammo davanti a una casa. Si vedeva brillare un lume dietro le tende di una finestra a loggia. Tutto il resto era al buio. La carrozza si fermò davanti alla porta centrale, che fu aperta da una cameriera. Scesi ed entrai in casa. «Vuoi seguirmi da questa parte, signora?» mi disse la ragazza. E io attraversai dietro a lei una vasta anticamera quadrata con alte porte tutt'attorno. Fu introdotta in una stanza dove il fuoco e le candele diffondevano una luce così chiara che a tutta prima ne rimasi abbagliata, dove il buio nel quale avevo viaggiato per 2 ore. Quando potei vedere ciò che mi circondava, un quadro piacevole e accogliente si presentò ai miei occhi. Mi trovavo in un confortevole salotto, accanto al caminetto, dove il fuoco scoppiettava allegramente. Vi era un tavolo rotondo e in un'antiquata poltrona dall'alto schienale era seduta la più graziosa piccola signora ad una certa età che si possa immaginare, vestita di seta nera, con un grembiule di mussolina bianca e una cuffia da vedova sui capelli. Proprio così mi ero raffigurata la signora Fairfax, soltanto che la mia immagine era un po' più imponente e non aveva un'espressione così dolce. La vecchia signora era occupata a far la calza e un grosso gatto stava accoccolato ai suoi piedi. Insomma, nulla mancava a rendere completo quel quadro ideale di benessere domestico. Sarebbe stato difficile desiderare una presentazione più rassicurante per una nuova istitutrice. Non vi era traccia né di quella solennità che imbarazza né di quel fasto che opprime. Inoltre, quando entrai, la signora si alzò subito e mi si fece premurosamente incontro. «Come sta, mia cara? Ho paura che il viaggio sia stato noioso. John guida così piano, ma lei deve avere freddo. Venga vicino al fuoco». «La signora Fairfax, credo», domandai. «Sì, infatti, si sieda, la prego». Mi condusse alla sua poltrona, mi levò lo scialle e cominciò a slacciare i nastri del mio cappello. Io la pregai di non darsi tanta pena. «Oh, non è niente, le sue mani devono essere intirizzite. Lia, prepara un po' di vino caldo e qualche panino. Ecco, le chiavi della dispensa». E così dicendo si tolse di tasca un grosso mazzo di chiavi e lo consegnò alla donna. «S'accosti di più al fuoco», continuò. «Ha portato con sé il suo bagaglio, mia cara?» «Sì, signora». «Lo farò mettere in camera sua», disse, e uscì in fretta. «Mi tratta come se fossi un ospite», pensai. «Non mi aspettavo certo una simile accoglienza, anzi, ero sicura di trovare freddezza e alterigia. Per quello che ne so, non è così che si tratta un'istitutrice, ma è meglio non rallegrarsi troppo presto». La signora ritornò e tolse da sé il lavoro a maglia e qualche libro dal tavolo per far posto al vassoio che Lia portava. Poi mi offrì ella stessa i rifreschi. Mi sentivo confusa ad essere oggetto di tante attenzioni che mai prima di allora mi erano state usate e per di più da parte di una persona che era la mia nuova padrona. Ma poiché ella si comportava come se tutto ciò fosse naturale, pensai che era meglio accettare tranquillamente le sue cortesie. «Avrò il piacere di conoscere questa sera la signorina Fairfax?» le domandai dopo aver gradito quello che mi offriva. «Come dice, mia cara? Sono un poco sorda», mi rispose accostando l'orecchio alla mia bocca. Ripetei la domanda più distintamente. «La signorina Fairfax? Ah, vuol dire la signorina Varenne! Varenne è il nome della sua futura allieva. Non è sua figlia? No, io non ho famiglia». Avrei voluto chiederle quali fossero i legami che la univano alla signorina Varenne, ma ricordai che non era buona educazione fare troppe domande. Inoltre ero certa che tra breve Nasser ne sarei stata informata. «Sono così contenta», continuò la vecchia signora, sedendosi di fronte a me e prendendo il gatto in grembo. «Sono così contenta che lei sia arrivata. Sarà piacevole vivere qui con un po' di compagnia. A dire il vero, qui si sta bene sempre. Thornfield è una vecchia villa, un po' trascurata ora, ma sempre bella e decorosa. Tuttavia, in inverno ci si sente tristi, anche in una bella casa, tristi e soli. Lia è certamente una brava ragazza e John e sua moglie sono gente di buon senso, ma capisce, sono soltanto persone di servizio e non si può parlare con loro da pari a pari. Bisogna tenerle a debita distanza se non si vuole perdere la propria autorità. L'inverno scorso, che è stato molto rigido, se si ricorda, e quando non nevicava, pioveva o tirava vento, da novembre a febbraio non abbiamo visto anima viva, eccetto il macellaio e il portalettere. Mi aveva preso la malinconia a passar qui così sola una sera dopo l'altra. Ogni tanto chiamavo Lia perché mi leggesse qualche cosa, ma non credo che fosse un compito piacevole per lei. Doveva sentirsi come confinata. In primavera e in estate le cose vanno meglio, è tutto diverso quando c'è il sole e le giornate sono lunghe. Poi, al principio dell'autunno, è giunta la piccola Adelva Wren con la sua bambinaia. Un bambino porta sempre un po' di vita in una casa e adesso che anche lei è qui, signorina, il mio umore sarà molto più allegro. Mi sentii veramente intenerita udendo parlare così quella degna signora e avvicinai un po' di più la mia seggiola alla sua, esprimendole il sincero desiderio che la mia compagnia le riuscisse gradita quanto lei sperava. Ma non voglio trattenerla di più questa sera, concluse ella. È quasi mezzanotte e lei ha viaggiato tutto il giorno, deve essere stanca. Se si è riscaldata bene, l'accompagnerò in camera sua. Le ho fatto preparare una stanza vicino alla mia. È piccola, ma ho pensato che forse ci si troverà meglio che non in quelle grandi che danno sulla facciata. Certo, là i mobili sono migliori, ma mi sembrano così tristi e solitarie che io non ci ho mai dormito. La ringraziai per quella scelta avveduta e, siccome ero davvero stanca del viaggio, confessai che mi ritiravo volentieri. Ella prese il candeliere ed io la seguì. Prima andò ad assicurarsi che la porta d'ingresso fosse chiusa, ne tolse la chiave e poi si diresse verso la scala. Gli scalini e la balaustra erano di quercia e l'alta finestra del pianerottolo era protetta da un'inferriata. Quella finestra e la lunga galleria sulla quale si aprivano le porte della camera da letto conferivano alla casa un aspetto più di chiesa che di villa. Sulla scala e nella galleria si respirava quell'aria umida e fredda che suggerisce l'idea di scuri e deserti sotterranei e fui contenta quando finalmente entrai in camera mia e la trovai piccola e arredata in uno stile semplice e moderno. Quando la signora Fairfax mi ebbe gentilmente augurato la buonanotte ed io, chiusa la porta, potei guardarmi attorno con mio agio, la sgradevole impressione suscitata in me dall'immensa anticamera deserta, dal buio scalone e dalla lunga e fredda galleria fu presto cancellata dall'aspetto più allegro ed accogliente della mia cameretta e soltanto allora ricordai che dopo una giornata di fatica fisica e di ansietà mentale ero finalmente giunta in porto. Un'onda di gratitudine mi gonfiò il cuore. E inginocchiandomi accanto al letto, resi grazie a chi erano dovute, senza dimenticare, prima di rialzarmi, di chiedere a Dio di aiutarmi nei giorni futuri e di rendermi degna della benevolenza che mi veniva sinceramente offerta, prima ancora d'averla meritata. Il mio letto non ebbe spine quella notte, né timori la mia solitudine. Affranta e felice al tempo stesso, mi addormentai profondamente e quando mi svegliai era giorno fatto. Come mi sembrò gaia la mia camera, ora che il sole brillando attraverso le tende azzurrine della finestra mi mostrava le pareti tappezzate di carta chiara e il bel tappeto che copriva il pavimento. Il contrasto con il nudo assito e i muri a calce di Lowood era così vivo che il mio spirito ne fu tutto allietato. Le cose esterne hanno un grande effetto sulla gioventù. Pensai che cominciava per me una vita più bella, la quale mi avrebbe arrecato sì spine e dolori, ma anche fiori e soddisfazioni. Stimolate dal cambiamento d'ambiente e dal nuovo campo aperto alla speranza, tutte le mie facoltà erano in tumulto. Non posso definire con esattezza che cosa mi aspettassi, ma certo qualche cosa di piacevole, non subito forse, ma in un avvenire non troppo lontano. Mi alzai e mi vestii con cura, costretta alla semplicità, poiché non possedevo abiti eleganti, ero per natura linda e ordinata. Non era mia abitudine sdegnare le apparenze o non curarmi dell'impressione che facevo, al contrario, desideravo sempre presentarmi come meglio mi era possibile e riuscire attraente quanto me lo permettesse la mia mancanza di bellezza. Qualche volta mi rincresceva di non essere più carina, avrei voluto avere un incarnato roseo, il naso dritto e una piccola bocca rossa, avrei voluto essere alta e ben fatta e giudicavo una disgrazia essere invece così piccola e pallida, avere fattezze così marcate e irregolari. Ma perché quel desiderio e quei rimpianti? Sarebbe difficile spiegarlo e allora non avrei saputo dirlo con precisione nemmeno a me stessa. Eppure vi era una ragione, ed era anche logica e naturale. Tuttavia, quando mi fui ben lisciati i capelli ed ebbi indossato il mio vestito nero, il quale, per quanto di foggia quacchera, aveva almeno il merito di andarmi quasi a pennello, e mi fui accomodata il collettino bianco, mi parve di potermi degnamente presentare alla signora Fairfax e alla mia nuova allieva, senza ispirare antipatia. Apersi la finestra e dopo essermi assicurata di aver lasciato tutto in ordine sul mio tavolo da toilette, uscii. Percorsi la lunga galleria, dove i passi erano attutiti da una stuoia. Scesi la lucida scala di quercia e raggiunsi la sala d'ingresso dove mi fermai a guardare i quadri appesi alle pareti. Uno, ricordo, rappresentava un brutto uomo con la corazza e un altro una dama incipriata con un vezzo di perle al collo. Il lampadario di bronzo che scendeva dal soffitto e un grande orologio dalla cassa di quercia intagliata che il tempo aveva reso nera come l'ebano. Tutto mi sembrava grandioso e imponente. Ma il fatto è che io allora non ero avvezza al lusso e alle grandezze. La porta d'ingresso a cristalli era aperta e ne approfittai per uscire. Era una bella mattinata d'autunno. Il sole brillava senza nubi sugli alberi ingialliti e sui campi ancora verdi. Giunta in mezzo al prato, mi volsi a guardare la facciata della casa. Era una costruzione a tre piani di considerevoli proporzioni, anche se non proprio vasta. Sembrava l'abitazione di un ricco possidente, più che la villa di un signore, ma i muri merlati le davano un aspetto pittoresco. La grigia facciata spiccava contro lo sfondo buio di un boschetto abitato dalle cornacchie che ora volteggiavano sul parco e sui campi, per calarsi poi su una prateria al di là di un alto steccato, dove una fila di vecchissime robinie, nodose e robuste come querce, spiegava l'origine del nome della villa. Più lontano si scorgevano le colline, non così alte come quelle di Lowood, e meno rocciose, meno simili a barriere che mi separassero dal mondo esterno. Queste erano dolci e solitarie, abbastanza per fare di Thornfield un eremo che mai mi sarei aspettata di trovare nei pressi di una località movimentata come Millcote. Sul versante di una di quelle colline s'arrampicava un paesello i cui tetti si confondevano con gli alberi. La chiesa del distretto era più vicina a Thornfield, se ne scorgeva il vecchio campanile in cima a un poggio a metà strada tra la villa e i cancelli. Mentre godevo di quel placido paesaggio e dell'aria pura ed ascoltavo divertita il gracidar dei corvi, osservavo tuttavia anche l'alta facciata grigia della casa, pensando che era ben grande per una piccola donna sola come la signora Fairfax. In quel momento la vidi comparire sulla soglia. «Come? Già fuori?» mi disse. «Vedo che è mattiniera!» Le andai incontro e fui accolta con un abbraccio e una stretta di mano. «Le piace Thornfield?» mi domandò ella. Le risposi che mi piaceva molto. «Sì, è proprio un bel posto, ma finirà con l'andare in rovina», aggiunse, «se il signor Rochester non si deciderà ad abitarvi, o perlomeno a tornarvi un po' più spesso. Le grandi case e i bei terreni richiedono la presenza del proprietario». «Il signor Rochester?» esclamai. «Chi è?» «Il padrone di Thornfield», mi fu risposto tranquillamente. «Non sapeva che si chiama Rochester?» Non lo sapevo, anzi, non ne avevo mai sentito parlare, ma la vecchia signora sembrava considerare l'esistenza del signor Rochester come un fatto naturalmente sottinteso, di cui tutti dovessero essere a conoscenza. Credevo, dissi, che Thornfield appartenesse a lei, signora Fairfax. A me? Oh, Dio la benedica, figliola, che idea! Appartenere a me? Io sono soltanto la governante, l'amministratrice. È vero che per parte di madre sono lontanamente imparentata ai Rochester, o perlomeno lo era mio marito. Mio marito era pastore e aveva la cura della parrocchia di Hay, quel paesino che si vede sulla collina. La chiesa vicina ai cancelli era la sua. La madre dell'attuale signor Rochester era una Fairfax e cugina in secondo grado di mio marito, ma io non ho mai tenuto conto di questa parentela e in realtà per me non esiste. Mi considero semplicemente una governante qualsiasi. Il padrone è sempre cortese con me e io non chiedo altro. E la bambina, la mia alunna? È la pupilla del signor Rochester, il quale mi ha incaricata di trovare per lei una istitutrice. Credo sia sua intenzione farla educare qui. Eccola che viene con la sua bonne, come lei la chiama. Così l'enigma era spiegato. Quella piccola vedova affabile e buona non era una gran signora, ma una dipendente come me. Non per questo mi riusciva meno simpatica, anzi, ero contenta che fosse così. L'eguaglianza tra me e lei esisteva di fatto, non era soltanto il risultato della sua condiscendenza. Tanto meglio, mi sarei sentita più libera. Mentre riflettevo su questa scoperta, una bambina seguita dalla bambinaia giunse correndo attraverso il prato. Osservai la mia allieva, che a tutta prima non sembrò accorgersi di me. Non doveva avere più di 7 o 8 anni ed era esile, con un viso pallido e delicato e una folta capigliatura, che le ricadeva in riccioli sulle spalle. «Buongiorno, signorina Adele», disse la signora Fairfax. «Venga a salutare la sua istitutrice. Le insegnerà molte cose e la farà diventare la compita signorina che lei dovrà essere un giorno». La bambina si avvicinò. «C'est la ma gouvernante?» domandò additandomi alla sua bambinaia. «Mais oui, certainement», rispose la donna. «Ma Sono straniere? Domandai meravigliata di udirle parlare francese. La bambinaia lo è e anche Adele è nata sul continente. Credo anzi che vi sia sempre vissuta sino a 6 mesi fa. Quando è arrivata non sapeva una parola d'inglese, ma ora lo parla già un pochino. Io non la capisco perché vi mischia tante parole francesi, ma credo che lei, signorina, non avrà alcuna difficoltà. Per fortuna avevo imparato quella lingua proprio da una francese e poiché avevo sempre cercato di conversare il più spesso che potevo con la signora Pierrot e negli ultimi 7 anni mi ero abituata a imparare a memoria ogni giorno un brano francese, applicandomi a migliorare il mio accento e ad imitare il più possibile la pronuncia della mia insegnante, avevo acquisito una certa correttezza di linguaggio e una familiarità che mi davano la certezza di cavarmela bene con la signorina Adele. Ella venne a darmi la mano quando apprese chi fossi e mentre la conducevo a colazione le rivolsi qualche parola nella sua lingua. Dapprima mi rispose brevemente, ma dopo, quando fummo a tavola ed ella mi ebbe fissata per una decina di minuti con i suoi grandi occhi castani, cominciò a chiacchierare spedita. «Oh!» esclamò in francese. «Lei parla bene la mia lingua come il signor Rochester, così potrò parlare con lei come parlo con lui». E anche Sophie potrà parlare. Sarà contenta perché nessuno qui la capisce, nemmeno la signora Fairfax. Sophie è la mia bambinaia. Ha attraversato il mar con me su un grosso bastimento con un fumaiolo che gettava fuori tanto fumo. Mi sono sentita male e così pure Sophie e il signor Rochester. Lui stava sdraiato su un divano in una bella stanza che chiamavano salon e Sophie ed io su 2 lettini in un'altra stanza. Sono quasi caduta da quel letto, tanto era stretto e signorina, qual è il suo nome? Eyre, Jane Eyre. Eyre? Ah, no, non lo so dire. E dunque il bastimento si fermò la mattina prima che si alzasse il sol davanti a una grande città, una grandissima città dalle case tutte nere e coperte di fumo. Non somigliava affatto alla bella e chiara cittadina che avevo lasciato. Il signor Rochester mi ha preso in braccio e siamo scesi a terra attraverso una passerella e Sophie dietro. Poi siamo saliti in una carrozza che ci ha condotti a una bella casa, molto grande, più bella e più grande di questa, che si chiamava Albergo. Ci rimanemmo quasi una settimana, io e Sophie andavamo tutti i giorni a passeggio in un bel posto pieno di alberi che era il parco. C'erano anche molti altri bambini e una vasca con gli uccelli ai quali gettavo briscioli di pane. «Riesce a capirla anche quando parla così in fretta?» mi chiese la signora Fairfax. La capivo benissimo perché ero abituata al chiacchierio di Madame Pierrot. «Vorrei», continuò la buona signora, «che le facesse qualche domanda sui suoi genitori». Chissà se li ricorda. Adele disse allora, con chi abitavi nella bella cittadina della quale hai parlato? Tanto tempo fa ci vivevo con la mamma, ma poi lei è andata dalla Santa Vergine. La mamma mi ha insegnato a ballare, a cantare e a recitare i versi. Tanti signori e tante belle signore venivano a trovarla, allora io ballavo. Oppure la mamma mi metteva sulle loro ginocchia e mi faceva cantare. Mi piaceva tanto. Vuoi sentirmi cantare? Poiché aveva finito la colazione, le permisi di darmi un saggio delle sue capacità. Ella scese dalla sedia e venne a sedersi sulle mie ginocchia. Poi, giungendo con modestia alle piccole mani, gettò indietro i ricci, alzò gli occhi al soffitto e cominciò a cantare un'aria d'opera. Era il lamento di una donna abbandonata che, dopo aver pianto per la perfidia dell'amante, chiama l'orgoglio in suo aiuto. Ordina alla fantesca di coprirla dei gioielli più ricchi, delle vesti più belle, perché ha deciso di affrontare l'ingrato quella notte a un ballo e di provargli con la sua gaiezza che la sua infedeltà poco l'affligge. L'argomento era dei meno adatti per una bambina, ma supposi che l'attrattiva di quella strana esibizione consistesse proprio nel sentir modulare da 2 labbra infantili gli accenti dell'amore e della gelosia e giudicai la cosa di pessimo gusto. Adele cantava con voce sufficientemente intonata e con l'ingenuità dei suoi giovani anni. Quando ebbe finito, saltò giù dalle mie ginocchia e disse «Adesso, signorina, le reciterò qualche poesia». Mettendosi in posa, cominciò la Ligue des Rats, Fable de la Fontaine. Declamò la favola con un'addizione così accurata e gesti tanto appropriati che, oltre a essere del tutto insoliti in una bambina, provavano l'abilità e l'impegno di chi l'aveva educata. «È stata la mamma a insegnarti codesta favola?» le domandai. «Sì, e lei la diceva così. Qu'avez-vous donc?» lui di «Elle sera parlé?» E a questo punto mi faceva alzare le mani così perché ricordassi di alzare la voce. «Adesso vuoi che balli?» No, basta così. Ma dopo che la mamma se ne andò dalla Santa Vergine, con chi hai vissuto? Con Madame Frederica e suo marito. Si occupò di me, ma non era mia parente e credo che fosse povera, perché la sua casa non era bella come quella della mamma. Ci rimasi poco con lei, perché il signor Rochester mi domandò se volevo venire a vivere in Inghilterra e io dissi di sì. L'avevo conosciuto molto prima di Madame Frederick ed era sempre stato gentile con me. Mi regalava giocattoli e bei vestiti, ma non ha mantenuto la promessa di restare con me perché dopo avermi accompagnata qui è partito subito e non lo vedo mai. Dopo colazione, Adele ed io ci ritiriamo in biblioteca, dove secondo gli ordini del signor Rochester, a quel che intesi, dovevo dare le lezioni alla sua pupilla. I libri erano quasi tutti chiusi dietro i cristalli delle librerie, ma in uno scaffale trovai allineate tutte le opere scolastiche desiderabili, insieme a libri di letteratura amena, di poesie, di viaggi e a qualche biografia. Probabilmente il signor Rochester aveva giudicato che ciò poteva bastare per i gusti di una istitutrice. Infatti, per il momento, giudicai quella raccolta più che sufficiente. In confronto ai pochi volumi che di quando in quando mi era riuscito di sfogliare allo Wood, essa sembrava offrire un'abbondante messe di nozioni e molte ore di svago. Si trovavano anche in quella stanza un pianoforte nuovo ed ottima marca, un cavalletto per dipingere e un paio di mappamondi. La mia allieva si dimostrò abbastanza docile, sebbene poco incline ad applicarsi. Evidentemente non era abituata ad alcuna occupazione regolare. Ritenni quindi inopportuno trattenerla a lungo in principio, così, dopo averle parlato per un po' e averle assegnato un breve compito, verso mezzogiorno le permisi di tornare dalla bambinaia. Quanto a me, avrei occupato il pomeriggio facendo qualche schizzo destinato a lei. Mentre salivo per prendere carta e matite, la signora Fairfax mi chiamò. La lezione del mattino è terminata? Mi domandò dalla soglia di una stanza con la porta a due battenti. La raggiunsi ed entrai dietro a lei in un vasto e sontuoso salotto dai tendaggi e le sedie di velluto rosso. Sul pavimento era steso un tappeto turco, le pareti erano rivestite di noce e in una di esse si apriva una grande finestra dai vetri riccamente istoriati, mentre l'alto soffitto era ornato di pregevoli stucchi. La signora Fairfax stava spolverando due vasi di porcellana rossa posti sopra una credenza. «Che bella stanza!» esclamai guardandomi attorno. Non avevo mai visto prima nulla di così elegante. È la sala da pranzo. Ho aperto la finestra per far entrare un po' d'aria e un po' di sole. L'umidità si accumula nelle stanze disabitate. Il salotto di là sa di muffa come una cantina. E additò un grande arco aperto nella parete di fronte alla finestra, dal quale scendeva un cortinaggio rosso sollevato da una parte. Mi avvicinai e salendo due gradini credetti di vedere davanti a me un luogo incantato, tanto apparve fastosa quella sala ai miei occhi di novizia, eppure era soltanto un graziosissimo salotto con uno più piccolo accanto. Tutti e due avevano il pavimento coperto da tappeti bianchi sui quali sembravano sparse vivaci ghirlande di fiori. I nivei stucchi dei soffitti rappresentavano bianchi grappoli d'uva e foglie di vite che per contrasto rendevano ancora più acceso il color cremisino dei divani e delle poltrone. Sul pallido marmo del caminetto brillavano lucidi ninoli di cristallo di Boemia rosso rubino e tra le finestre grandi specchiere riflettevano quell'insieme di neve e di fuoco. «Come tieni in ordine queste stanze, signora Fairfax?» esclamai. «Né polvere, né fodere sui mobili. Se non fosse per l'aria fredda che ci si respira, si direbbero abitate quotidianamente». Vede, signorina, il fatto è che sebbene il signor Rochester venga di rado qui, arriva però sempre all'improvviso e quando torna non gli piace di vedere la gente affaccendata, così cerco di tenere sempre tutte le stanze in ordine. È una persona molto esigente e irascibile, il signor Rochester? No, non si può dirlo, ma ha i gusti e le abitudini di un signore e vuole che così sia tenuta la sua casa. A lei piace il signor Rochester? E in genere è ben voluto? Oh sì, la sua famiglia è sempre stata rispettata. Quasi tutte le terre dei dintorni, fin dove arriva l'occhio, appartengono ai Rochester da tempo immemorabile. Bene, ma lasciando da parte le sue proprietà, lei è simpatico? È amato per se stesso? Non ho ragione per non volergli bene e credo che i suoi fittavoli lo stimino un padrone giusto e generoso, ma non è mai vissuto a lungo in mezzo a loro. Ma non ha qualità particolari, insomma, com'è il suo carattere? Il suo carattere è irreprensibile, a quanto mi pare. Forse un po' strambo. Ha viaggiato molto e ha visto tante cose e sono convinta che è un uomo colto e intelligente, ma non ho mai parlato a lungo con lui. Che cos'ha di strano? Non saprei, non è facile a spiegarsi. Nulla che colpisca a prima vista, ma lo si sente quando comincia a parlare. Non si è mai sicuri se parli sul serio o per burla, se sia contento oppure no. È difficile capirlo bene, io perlomeno non lo capisco, ma ha poca importanza, poiché è un ottimo padrone. Questo è tutto quanto appresi dalla signora Fairfax sul conto del suo e del mio padrone. Vi sono persone che sembrano incapaci di definire un carattere o di osservare e descrivere le particolarità salienti sia degli uomini che delle cose. La buona signora apparteneva evidentemente a quella categoria. Le mie domande l'avevano imbarazzata, ma senza risultato. Il signor Rochester era il signor Rochester per lei, un gentiluomo, un ricco proprietario e nient'altro. Ella non chiedeva né indagava oltre e si stupiva del mio desiderio di avere idee un po' più precise sulla personalità del mio padrone. Uscendo dalla sala da pranzo, mi propose di farmi conoscere il resto della casa ed io la seguii su e giù, ammirando l'ordine, il buon gusto e la ricchezza che regnavano ovunque. Le stanze che davano sul fronte della casa, specialmente, mi parvero belle. Altre, al terzo piano, sebbene buie e basse, mi piacquero per il loro carattere antico. I mobili che un tempo avevano arredato gli appartamenti dei piani inferiori, col cambiare delle mode, a poco erano finiti lassù e la incerta luce che entrava dalle piccole finestre mi mostrò letti antichi di 100 anni, casse panche di quercia o di noce, simili ad arche ebraiche, con le loro sculture di rami di palme e teste di cherubini, file di sedie venerande dagli alti e stretti schienali, sgabelli ancora più vecchi che recavano sull'imbottitura le tracce di sbiaditi ricami, intessuti da dita sepolte nella tomba da almeno 2 generazioni. Tutti quegli oggetti antichi davano al terzo piano della villa di Thornfield l'aspetto di una casa del passato, di un reliquiario di memorie. Ora che era giorno, il silenzio, la penombra, la singolarità di quei recessi mi affascinavano, ma non avrei affatto desiderato riposare una notte in uno di quei vasti letti massicci, chiusi, alcuni da sportelli di quercia, nascosti altri da antiche stoffe inglesi raffiguranti strani fiori, uccelli ed esseri umani che certo sarebbero apparsi ancora più misteriosi nel pallido chiarore della luna. «Qui dorme la servitù?» domandai. No, i servi occupano un quartiere sul retro della casa. Qui non ci dorme mai nessuno e credo che se mai ci fosse uno spirito nella villa abiterebbe in queste stanze. Lo credo anch'io. Dunque, spiriti non ce ne sono? No, per quanto io sappia, rispose sorridendo la signora. Neppure nella tradizione? Thornfield non ha una sua leggenda o una sua storia di spiriti? Credo di no. Eppure si dice che i Rochester siano stati a loro tempo una schiatta più violenta che tranquilla, ma forse è proprio per questo che ora riposano in pace nelle loro tombe. Sì, dopo la febbre della vita dormono tranquilli, mormorai. Dove va adesso, signora Fairfax? Le chiesi, vedendo che si allontanava. In terrazza? Vuol venire a vedere la vista di lassù? La seguii su per un'angusta scaletta che conduceva alle soffitte e di là, arrampicandomi su una scala a pioli, uscimmo sul tetto attraverso una botola. Mi trovai alla stessa altezza del boschetto delle cornacchie e potei guardare nei loro nidi. Appoggiandomi al parapetto, volsi lo sguardo sul territorio che si estendeva sotto di me al pari di una carta geografica. Vidi il prato d'un lucido verde vellutato che circondava da presso il grigio basamento della casa, i campi spaziosi con i loro vecchi alberi ad alto fusto, il bosco scuro e quasi spoglio tagliato da un sentiero evidentemente poco battuto, poiché il muschio che lo copriva era più verde del fogliame degli alberi. La chiesa presso i cancelli, la strada, le placide colline, tutto sembrava riposare sotto il sole d'autunno e in alto il cielo azzurro sfumava all'orizzonte in un bianco perlaceo. Non vi era nulla di straordinario in quella scena, ma si faceva ammirare. Quando me ne distolsi e varcai di nuovo la botola, distinsi a stento i pioli della scala. Il solaio sembrava scuro come una cantina rispetto all'aria aperta e luminosa dalla quale venivo, e al soleggiato paesaggio di boschi, di prati, di colli che circondava la villa. La signora Fairfax s'attardò un momento dietro a me per chiudere la botola, ed io trovai a tastoni la porta delle soffitte e la scala stretta e buia. Giunta nel lungo corridoio del terzo piano, mi fermai. Quel passaggio stretto, basso, semibuio, con una sola finestrella all'altra estremità e le due file di piccole porte nere tutte chiuse che lo fiancheggiavano, faceva pensare al castello di Barba Blu. Nel momento in cui cominciavo a percorrerlo, uno scoppio di risa, un suono del tutto inaspettato in quella parte così solitaria della casa, mi ferì l'orecchio. Era un riso strano, sonoro, stridulo e per niente gaio. Mi fermai e per un istante la risata tacque, poi ricominciò più squillante e diventò uno scroscio clamoroso che parve risvegliare un eco in ogni stanza. Ma avrei potuto additare con precisione la porta donde proveniva. Signora Fairfax, chiamai, perché in quel momento ella scendeva la scala dei solai. Ha sentito quella risata? Chi può essere? Una serva, probabilmente, mi rispose. Forse Grace Poole. Ma l'ha sentita? Insistei. Sì, benissimo, e la sento spesso. Grace cuce in una di quelle stanze e qualche volta c'è Lia con lei. Quando sono insieme fanno sempre chiasso. La risata risuonò di nuovo, bassa e secca, quasi sillabica, e finì in uno strano mormorio. Grace! Esclamò la signora Fairfax. Non mi aspettavo di veder comparire Grace né nessun altro perché quella risata sembrava soprannaturale e di simili non ne avevo udite mai, ma per fortuna era giorno e nessuna delle circostanze indispensabili per tradizione all'apparizione degli spiriti aveva accompagnato quel riso sinistro. Ma se la scena e il momento fossero stati più adatti a favorire la paura, un superstizioso sgomento si sarebbe impadronito di me. Ciò che seguì mi dimostrò invece che persino la mia sorpresa era affatto fuori luogo. La porta più vicina a me si aperse e ne uscì una donna di servizio, una donna fra i 30 e i 40 anni, grossa e robusta, con i capelli rossi e un viso grossolano, proprio l'opposto di un'apparizione romantica, o quantomeno soprannaturale. Fate troppo chiasso, Grace, disse la signora Fairfax, cercate di non dimenticare gli ordini avuti. Grace si inchinò senza parlare e tornò nella stanza. È una donna che teniamo per il cucito e per dare un aiuto a Lia nelle pulizie, mi spiegò la signora. Non è certo senza difetti, ma lavora bene. A proposito, com'è andata questa mattina la lezione? La conversazione prese così un altro corso e parlammo della mia allieva fino a quando abbiamo raggiunto il pian terreno, con le sue stanze chiare ed accoglienti. Adele ci venne incontro in antecamera annunciando: Mesdames, vous êtes servies! Poi aggiunse: Je bien fait, moi! La cena era pronta e ci aspettava nel salottino della signora Fairfax. Capitolo 12. La promessa di un'esistenza calma e serena, che il mio agevole ingresso a Thornfield Hall sembrava garantire, non fu smentita dalla conoscenza più approfondita della villa e dei suoi abitanti. La signora Fairfax era realmente la donna che sembrava dolce e compiacente, abbastanza istruita e di media intelligenza. La mia alunna era una bambina vivace, evidentemente viziata e quindi spesso capricciosa, ma affidata completamente alle mie cure, senza che alcuno mai interferisse nei miei sistemi educativi. In breve, ella dimenticò i suoi ghiribizzi e diventò docile e volonterosa. Non aveva attitudini spiccate né gusti e sentimenti superiori alla sua età, ma non aveva nemmeno difetti gravi. Faceva ragionevoli progressi e nutriva per me un affetto vivace, anche se forse non profondo. Quanto a me, la sua semplicità, il suo gaio chiacchierio, i suoi sforzi per accontentarmi me l'avevano resa sufficientemente cara perché entrambe fossimo contente e soddisfatte della nostra reciproca compagnia. Questo mio modo di esprimermi, tra parentesi, sarà giudicato freddo da coloro che coltivano solenni teorie sulla natura angelica dei fanciulli e sul dovere da parte degli educatori di concepire per loro un'idolatra devozione. Ma io non scrivo per adulare i sentimenti dei genitori o per indulgere a sdolcinature né per raccontare frottole. Io dico semplicemente la verità. Il benessere e i progressi di Adele mi stavano sinceramente a cuore e nutrivo per lei una tenerezza non meno tranquilla della riconoscenza che mi ispirava la buona signora Fairfax e del piacere che trovavo nella sua compagnia. Un piacere proporzionato alla placida stima che l'aveva per me e alla moderazione del suo carattere e dei suoi sentimenti. Libero chi vuole biasimarmi, ma ora aggiungerò questo. Quando passeggiavo sola per la campagna, quando scendevo sino ai cancelli e seguivo con gli occhi la strada, o quando, mentre Adele giocava con la bambinaia e la signora Fairfax preparava le marmellate in cucina, salite le 3 rampe di scale, aperta la botola della soffitta, raggiunta la terrazza sul tetto, posavo gli occhi sulla distesa dei campi e delle colline. Ogni tanto io anelavo a oltrepassare quei limiti, non fosse che con lo sguardo, per vedere le regioni più animate, le città, quel mondo pieno di vita del quale avevo sentito parlare, ma che mai avevo conosciuto. Desideravo una maggiore esperienza pratica della vita, maggior commercio con i miei simili, la possibilità di accostarmi a una varietà di caratteri più estesa di quella che mi potevano offrire gli abitanti di Thornfield. Apprezzavo quanto vi era di buono nella signora Fairfax, quanto vi era di buono in Adele, ma credevo nell'esistenza di altre e più vive forme di bontà, e volevo contemplare ciò in cui credevo. Chi mi biasimerà? Molti senza dubbio, e diranno che sono una creatura inquieta e insoddisfatta, ma non posso evitarlo, l'inquietudine era parte della mia natura e spesso mi faceva soffrire. Allora il mio solo sollievo era di camminare in su e in giù per il corridoio del terzo piano. Indisturbata in quel silenzio e in quella solitudine, lasciando che la mia mente si cullasse nelle splendide fantasie che sapeva evocare, ed erano molte e ardenti, sentendo il mio cuore gonfiarsi di una esultanza che, mentre lo faceva soffrire, lo rendeva palpitante di vita, e soprattutto ascoltando nell'intimo una favola che non aveva mai fine, una favola creata dalla mia immaginazione, narrata di continuo, arricchita da ogni sorta di eventi, di fatti e di sensazioni che desideravo e non avevo nella mia attuale esistenza. È vano dire che gli esseri umani dovrebbero accontentarsi della quiete. Gli uomini hanno bisogno dell'azione e se non la trovano, la creano. Milioni e milioni sono condannati a un'esistenza più monotona della mia e milioni si ribellano in silenzio a questa loro sorte. Nessuno sa quante rivolte, oltre a quelle politiche, fermentino nelle masse viventi che popolano la terra. Si suppone che le donne siano generalmente molto calme, ma le donne sentono come gli uomini e come loro hanno bisogno di esercitare le loro facoltà, hanno bisogno di un campo per i loro sforzi, soffrono esattamente come gli uomini di essere costrette entro limiti angusti, di condurre un'esistenza troppo monotona e stagnante, e i loro più privilegiati compagni danno prova di ristrettezze di mente quando affermano che le donne dovrebbero accontentarsi di cucinare, far la calza, di suonare il pianoforte, ricamare. È stolto condannarle o deriderle se cercano di fare o di apprendere più di quanto le consuetudini ritengano necessario per il loro sesso. Quando passeggiavo così sola nel corridoio del terzo piano, udivo spesso la risata di Grace Poole, la stessa risata secca, bassa e stridula che tanto mi aveva colpito la prima volta. Udivo anche quello strano mormorio che mi lasciava perplessa ancora più della risata. Certi giorni stava zitta, ma più spesso uscivano dalla sua stanza suoni che non saprei come descrivere. Qualche volta la vedevo comparire con un catino, un piatto o un vassoio, scendeva in cucina e poco dopo ritornava su, portando generalmente... Tu, romantica lettrice, perdonami se dico la schietta verità, una caraffa di birra nera. Mi bastava vederla perché la curiosità, e non so quale vaga eccitazione, suscitata in me dalle sue strane risate, si spegnessero subito. Con quei tratti rozzi e l'espressione stolida era quanto di più banale si potesse immaginare. Più volte avevo tentato di intrattenermi con lei, ma sembrava una persona di poche parole e di solito tagliava corto alle domande con un sì o un no. Le altre persone di servizio, John e sua moglie, Lia la cameriera e Sophie la bambinaia francese, erano buona gente, ma insignificanti. Con Sophie parlavo di solito francese e l'interrogavo sul suo paese, ma era priva di qualsiasi fantasia e inoltre rispondeva sempre in modo insulso e confuso, come chi desidera eludere anziché incoraggiare le domande. Ottobre, novembre, dicembre passarono così e un pomeriggio di gennaio la signora Fairfax mi chiese di dar vacanza ad Adele, che era raffreddata. Adele si condotta alle domande con tanto calore che ricordai la gioia con la quale anch'io, nella mia infanzia, accoglievo una vacanza inaspettata. Così acconsentì, ritenendo di far bene a mostrarmi condiscendente. La giornata rigida, ma calma e serena, invitava ad uscire ed io, che ero rimasta tutta la mattina seduta in biblioteca, vedendo che la signora Fairfax aveva scritto una lettera, mi offrii di andargliela ad impostare ad Hay. Le 2 miglia che ci separavano dal paese sarebbero state una bella passeggiata in quel pomeriggio d'inverno. Lasciai Adele tranquillamente seduta davanti al caminetto del salotto con la sua bambola più bella, che di solito tenevo dentro un cassetto avvoltolata nella carta d'argento, e con un libro di fiabe perché non si annoiasse. E dopo aver risposto con un bacio al suo «Revenez bientôt, ma bonne amie, ma chère mademoiselle Ginette!» misi cappello e mantello e uscì. Il terreno era duro, l'aria tranquilla e la strada solitaria. Camminai rapidamente finché non mi fui riscaldata, poi rallentai il passo per meglio godere e analizzare il piacere che trovavo in quell'ora e nella mia passeggiata. L'orologio della chiesa suonò le 3 mentre passavo sotto al campanile. Il fascino dell'ora risiedeva per me nel crepuscolo incombente, che già velava d'ombre i pallidi raggi del sole basso all'orizzonte. Ero a 1 miglio da Thornfield, in un sentiero rinomato per le rose selvatiche che vi fiorivano in estate, per le more e le nocciole in autunno, e dove ancora qualche bacca rosso occhieggiava tra le siepi. Ma in inverno la vera attrattiva di quella strada stava nella sua spoglia solitudine, nel suo fondo di silenzio. Se spirava un filo d'aria, lì non si avvertiva, perché i fruscianti arbusti di agrifoglio erano lontani e il biancospino e i noccioli erano nudi e muti come le pietre bianche consumate che selciavano il centro della via. Di qua e di là, in distanza, non si vedevano che campi dove nessun gregge pascolava e i bruni uccellini che di quando in quando svolazzavano sulle siepi sembravano foglie morte che avessero dimenticato di cadere. Fino ad Hay il sentiero era tutto in salita. Quando fui a metà strada mi sedetti sulle traverse di una barriera che dava adito ad un prato, bene avvolta nel mantello e con le mani nascoste nel manicotto. Non sentivo il freddo che era pure intenso, come dimostrava uno strato di ghiaccio sulla via, là dove un rivoletto l'aveva bagnata giorni prima. Dal posto dove ero seduta potevo scorgere la villa che con i suoi alti muri merlati spiccava ben distinta nella valle. Il suo bosco nero abitato dalle cornacchie si disegnava dietro ad essa contro il cielo orientale. Rimasi là a guardare quel panorama fino a quando il sole scese dietro agli alberi e scomparve, tingendo l'orizzonte di una luce rossastra. Allora mi volsi verso ovest. La luna sorgeva in cima a una collina, pallida ancora come una nube, ma di momento in momento più brillante. Era già sopra Hay che, seminascosto tra gli alberi, levava nell'aria il fumo azzurrognolo dei suoi pochi camini. Ero ancora un miglio dal paese, ma nel profondo silenzio ne distinguevo nitidamente i rumori, insieme al mormorio dei ruscelli che scorrevano nelle valli. A quale profondità non saprei dire, ma vi erano molte colline al di là di Hay e senza dubbio molti corsi d'acqua le solcavano. La calma della sera ne rivelava le voci vicine come quelle più lontane. Un rumore improvviso coprì quei mormorii, quei gorgoglii remoti e al tempo stesso così chiari. Uno scalpiccio, un susseguirsi di colpi metallici regolari si sovrappose al morbido fluire delle acque, come in un dipinto la solida massa di uno scoglio o il tronco scabro di una quercia in primo piano cancellano l'aereo spazio del cielo, la pallida collina o le nubi stemperate sullo sfondo. Il rumore veniva dal sentiero ed era prodotto dal passo di un cavallo. La sinuosità della via me lo nascondevano ancora. Ma andava avvicinandosi. Stavo per incamminarmi quando riflettei che il sentiero, essendo molto stretto, forse era meglio lasciarlo passare. Ero giovane allora e avevo la mente ancora piena di racconti fantastici. L'età più matura conferiva alle fiabe della mia infanzia un vigore e un'immediatezza di suggestione che un tempo non avevano. Mentre quel cavallo si avvicinava ed io aspettavo di vederlo comparire nel buio, ricordai una favola di Bessie che parlava di uno spirito del nord dell'Inghilterra chiamato Gidrash. Questo spirito frequentava le strade solitarie sotto forma di cavallo o di mulo o di cane e talvolta si mostrava ai viandanti attardatisi per via, proprio come ora il cavallo che si avvicinava si sarebbe mostrato a me. Era ormai poco distante, ma non ancora visibile, quando, oltre al rumore degli zoccoli, udii un fruscio lungo la siepe ed ecco sgusciare fuori dai noccioli un grosso cane, inconfondibile anche al buio per il suo pelame bianco e nero. Con quel testone e quel pelo così folto poteva proprio essere scambiato per il Ghitrash di Bessie. Ma mi passò accanto tranquillamente, senza fermarsi a guardarmi con occhi fosforescenti e strani, come quasi mi sarei aspettata. Il cavallo lo seguiva, uno splendido animale a quel che vidi, montato da un cavaliere. La presenza dell'uomo ruppe all'istante l'incantesimo, poiché nessun essere umano aveva mai cavalcato Ghitrash. Ghitrash era sempre solo, e inoltre gli spiriti, per quanto ne sapevo, anche se potevano abitare una muta carcassa di animale, vanamente tentavano di assumere una normale forma umana. Non era dunque Ghitrash, ma soltanto un viaggiatore che aveva preso la via più breve per giungere a Millcote. Passò. E allora anch'io mi mossi, ma fatti pochi passi mi voltai, udendo il rumore di una caduta e questa esclamazione. E adesso che diavolo faccio? Cavallo e cavaliere erano per terra. Lo strato di ghiaccio che copriva il selciato li aveva fatti scivolare e cadere. Il cane tornò indietro di corsa e, vedendo il padrone per terra accanto al cavallo che gemeva, si mise ad abbaiare con quanta forza aveva, tanto che tutta la campagna echeggiò dei suoi latrati. Poi girò mugolando intorno ai due malcapitati e corse a me. Era tutto quello che ancora poteva fare, non essendovi altri lì attorno cui chiedere aiuto. Subito lo seguii e trovai il viaggiatore che cercava di liberarsi del cavallo. I suoi sforzi erano così vigorosi che giudicai non si fosse fatto molto male. Tuttavia gli domandai: «Si è ferito, signore?» Mi parve che imprecasse, ma non ne sono certa. Però brontolò tra sé senza rispondermi. «Posso fare qualcosa per lei?» continuai. «Sì, scostarsi!» mi rispose, alzandosi prima sulle ginocchia e poi in piedi. Ubbidì, e allora egli si diede all'ardua impresa di rialzare il cavallo, tra uno scalpiccio di piedi di zoccoli, un tintinnio di finimenti, un ansimare, e il tutto accompagnato da tali latrati che mi indussero infatti ad allontanarmi un poco, ma non ad andarmene senza aver veduto come sarebbe finita l'avventura. Finì felicemente. Il cavallo fu rimesso in piedi e il cane fatto tacere con un giù, pilota. Poi il cavaliere mosse alcuni passi, come per accertarsi che il piede e la gamba fossero illesi, ma evidentemente del tutto sani non lo erano, perché subito si fermò, mettendosi a sedere sulla stessa barriera dalla quale mi ero alzata poco prima. Forse quel giorno io ero in vena di rendermi utile, o perlomeno di apparir cortese, perché mi accostai di nuovo al viaggiatore e gli dissi: «Se si è fatto male e ha bisogno di aiuto, signore, posso andare a chiamare qualcuno a Thornfield o a Hay?» «Grazie, posso fare da solo, non ho nulla di rotto, soltanto una slogatura». Si provò di nuovo a camminare, ma involontariamente gettò un grido. La luce del crepuscolo non era ancora del tutto scomparsa e la luna si faceva sempre più chiara. Così potevo veder bene lo sconosciuto. Era avvolto in un mantello dal bavero di pelliccia e dalle fibre di metallo che gli celavano in parte la figura. Tuttavia notai che era di statura media, robusta di spalle, e che il viso, dai lineamenti duri e dalla fronte severa, aveva un colorito scuro. Gli occhi, in quel momento pieni di ira, e le sopracciglia aggrottate, tradivano un'indole violenta. Non era più giovanissimo, ma non aveva ancora toccato la maturità. Poteva avere 35 anni. Non mi incuteva paura, appena un po' di timidezza. Fosse stato un gentiluomo, giovane e bello e dall'aspetto eroico, non avrei osato interrogarlo e offrirgli i servigi che non chiedeva. Non avevo mai parlato a un bel giovane, forse non ne avevo mai visto uno. Rendevo un teorico omaggio alla bellezza, all'eleganza, al fascino, alla galanteria. Ma se avessi trovato tutte queste qualità incarnate in un uomo distinto, avrei saputo che non poteva simpatizzare con me né io con lui, e lo avrei sfuggito come si sfugge il fuoco, il lampo e tutto ciò che è antipatico, anche se brillante. Se quello sconosciuto mi avesse sorriso quando gli avevo rivolto la parola, se si fosse mostrato cortese e di buon umore rifiutando le mie offerte, avrei continuato per la mia via, senza essere tentata di offrirgli nuovamente aiuto. Ma il malumore e la sgarberia del cavaliere mi mettevano a mio agio, e quando egli mi fece cenno di andarmene, rimasi dov'ero e dissi: «Ma, signore, non posso abbandonarla quest'ora in un luogo così isolato, prima di aver visto se può rimontare a cavallo». A queste parole si voltò. Era la prima volta che posava gli occhi su di me. «Mi sembra che anche lei a quest'ora dovrebbe essere a casa», mi rispose, «se abita da queste parti. Di dove viene?» «Di laggiù, e quando c'è la luna non ho paura di star fuori fino a tardi. Andrò con piacere sino ad Hay, se vuole. Ci ero già diretta per imbucare una lettera». «Lei viene dalla valle? Vuol dire che da quella casa con le merlature?» mi domandò, indicando Thornfield, che, illuminata dalla luna, spiccava ben distinta in mezzo agli alberi, bui per contrasto come masse d'ombra contro il cielo occidentale. «Sì, signore. A chi appartiene quella casa?» «Al signor Rochester. Lo conosce?» «No, no, non l'ho mai veduto». «Non vi abita allora?» «No». «Può dirmi dove si trovi?» «Ah, non lo so. Lei non è una delle domestiche, naturalmente. Deve essere...» Si interruppe e diede un'occhiata al mio vestito, che era semplice come al solito, un cappotto di lana nera e un berretto di castoro, che forse la cameriera di una ricca signora avrebbe sdegnato. Sembrò perplesso sulla mia identità e allora gli venni in aiuto. «Sono l'istitutrice», dissi. «Ah, l'istitutrice! Diavolo, l'avevo dimenticata, l'istitutrice!» Mi esaminò di nuovo e poi si alzò, tentando di camminare, ma vidi che soffriva. «Non posso mandarla a cercare aiuto», riprese, «ma se vuole essere così gentile di aiutarmi?» «Sì, signore. Non ha un ombrello che possa servirmi da bastone?» «No. Allora prenda il cavallo per la briglia e cerchi di condurlo qua. Non ha paura, vero?» Mi sarei certo spaventata all'idea di toccare un cavallo se fossi stata sola, ma poiché mi veniva chiesto di farlo, ero disposta ad ubbidire. Posai il manicotto sulla barriera e mi avvicinai al cavallo, tentando di afferrarlo per le briglie, ma l'ombroso animale non si lasciava toccare. Ripetei i miei tentativi, sempre più intimorita dall'irrequietezza delle sue zampe, che battevano nervosamente il terreno. Intanto il viaggiatore aspettava, guardando la scena. Infine, scoppiò in una risata. «Vedo che la montagna non verrà da Maometto», disse. «Allora tutto quello che lei può fare è di aiutare Maometto ad andare alla montagna. Venga qui, la prego». Mi avvicinai. «Mi scusi», continuò continuò egli. È la necessità che mi costringe a servirmi di lei. Posò una mano sulla mia spalla e, appoggiandovisi forte, giunse zoppicando fino al cavallo. Una volta che lo ebbe preso per le briglie, riuscì subito ad ammansirlo e a balzare in sella, ma non senza danno per la sua gamba offesa, perché lo vidi fare una smorfia di dolore. Adesso, disse, liberando il labbro inferiore dal morso dei denti, mi dia il frustino, è là, sotto la siepe. Andai a cercarlo e glielo porsi. La ringrazio, ed ora vada presto a impostare la sua lettera e al ritorno da Hay, non s'attardi per strada. Al tocco degli speroni, il cavallo trasalì, si impennò e poi partì a galoppo. Il cane gli si slanciò dietro e in un attimo sparirono tutti e tre. Raccolsi il manicotto e mi avviai. L'avventura era conclusa. Un'avventura di poco conto, senza nulla di romantico o di particolarmente interessante, ma che per un'ora aveva interrotto la monotonia della mia vita. Qualcuno aveva avuto bisogno del mio aiuto, me lo aveva chiesto ed io lo avevo dato. Ero contenta di essermi resa utile, d'aver potuto agire anche in circostanze modeste e occasionali, dopo tanti mesi di esistenza passiva ed uniforme. E poi quel volto nuovo era come un nuovo ritratto introdotto nella galleria dei miei ricordi, nuovo e diverso da tutti gli altri che vi si trovavano, prima di tutto perché era un viso d'uomo, poi perché era triste, forte e severo. L'avevo ancora davanti agli occhi quando, giunta ad Hay, lasciai cadere la lettera nella buca della posta e quando ripresi a passo svelto la via della collina per tornare a casa. A metà della discesa, passando davanti alla barriera, mi fermai un istante, guardandomi attorno e tendendo l'orecchio, come se da un momento all'altro dovessi udire di nuovo gli zoccoli di un cavallo sulla pietra della via. E un cavaliere ammantellato, seguito da un grosso Terranova dagli occhi di fuoco, stesse per sbucare ancora dalla prossima svolta. Ma non vidi che la siepe e un alto salice svettato con i rami protesi verso i raggi della luna. Non udii che il trascorrere del vento tra gli alberi di Thornfield a un miglio di distanza, e quando guardai in direzione di quel lontano stormire, i miei occhi colsero attraverso l'ingresso il chiarore di un lume. Mi resi conto allora che s'era fatto tardi e ripresi a camminare di buon passo. Ma il ritorno a Thornfield non mi era gradito. Oltrepassarne la soglia significava ricadere nella monotonia, attraversare come al solito la silenziosa anticamera, salire la scala buia, rifugiarmi nella mia stanza solitaria, poi rivedere la placida signora Fairfax, trascorrere con lei e con lei sola la lunga serata invernale. Quel po' di eccitazione procuratami dalla lunga passeggiata subito si sarebbe spenta e le mie facoltà si sarebbero di nuovo addormentate, nei ceppi di un'esistenza troppo tranquilla ed uniforme, un'esistenza di cui cominciavo a non poter più apprezzare la sicurezza e le comodità, come mi avrebbe giovato invece dovermi dibattere tra le tempeste di una vita incerta e piena di lotte. Allora sì che dopo tante dure e amare esperienze avrei amato la calma nella quale ora mi sentivo soffocare. Desideravo l'azione, proprio come un uomo rimasto troppo a lungo seduto in una comoda poltrona desidera fare una passeggiata, e il bisogno di movimento nelle mie condizioni era naturale quanto il suo. Arrivata ai cancelli, rallentai il passo ed indugiai un poco sul prato davanti alla casa. Sempre con riluttanza avanzai infine lungo il selciato che correva tutto attorno al muro. Non potevo vedere all'interno perché tutte le griglie delle porte a vetri erano chiuse e del resto, sia con gli occhi che con lo spirito, tendevo a distogliermi dalla vista di quel tetro edificio, di quella massa grigia piena di celle senza luce, per mirare invece il cielo, un cielo senza macchia, dove la luna saliva sempre più solenne, abbandonando i dossi dietro ai quali era sorta, per raggiungere lo zenit e scomparire nel buio senza fondo dello spazio. Le stelle, che seguivano palpitando il suo cammino, mi facevano tremare il cuore, ma accendevano una strana inquietudine nelle vene. Sono spesso le piccole cose a richiamarci alla realtà. L'orologio batté le ore in anticamera e io mi riscossi, volsi le spalle alla luna e alle stelle ed entrai in casa da una porta laterale. La sala d'ingresso non era buia, sebbene il grande lampadario del soffitto fosse spento. Rossi riflessi la rischiaravano, lambendo anche i primi gradini della scala di quercia. Quel caldo bagliore proveniva dalla sala da pranzo, la cui porta, spalancata, lasciava scorgere il fuoco che ardeva dietro la grata del caminetto. Le fiamme diffondevano una piacevole luce tutt'attorno, traendo riverberi dall'attizzatoio d'ottone e dal pavimento di marmo, e rivelando il lucido mobilio e i tendaggi rossi. Rivelavano anche un gruppo riunito attorno al camino. L'avevo appena scorto, avevo appena percepito un allegro brusio di voci tra le quali mi parve di distinguere quella di Adele quando la porta fu chiusa. Corsi nella stanza della signora Fairfax. Anche lì il fuoco era acceso, ma non vi era lume e nemmeno la buona signora. Al suo posto, seduto sul tappeto e con gli occhi fissi sulla brace, scorsi tutto solo un grosso cane dal lungo pelo bianco e nero, del tutto simile al Ghitrash che avevo incontrato sul sentiero. La somiglianza era tale che feci un passo avanti e chiamai: «Pilota!». Il cane si alzò, venne ad annusarmi e quando lo accarezzai mosse la coda in segno di contentezza. Ma continuava a sembrarmi un'apparizione e inutilmente cercavo di immaginare donde fosse venuto. Suonai il campanello per chiedere un lume e anche per sapere che ci facesse quel cane in quella stanza. Lia entrò. «Di chi è questo cane?». «È venuto col padrone». «Con chi?». «Con il padrone, il signor Rochester, è arrivato poco fa». «Ah, e la signora Fairfax è da lui?». «Sì, con la signorina Adele. Sono in sala da pranzo e John è andato a chiamare un medico perché il signore ha avuto un incidente. Il suo cavallo è scivolato ed egli, nella caduta, si è slogato un piede». «È forse caduto sulla via di Hay?». «Sì, c'era il ghiaccio e la strada era in discesa». «Ho capito. Portami un lume, Lia». Lia tornò con la candela, seguita dalla signora Fairfax, che mi diede le stesse notizie. Mi disse pure che Carter, il medico, era arrivato e ora stava parlando con il signor Rochester. Poi tornò via di furia per ordinare il tè ed io salii a togliermi il cappotto in camera mia.